5, 4, 3, 2, 1, 0. Gentili ascoltatori e gentili ascoltatrici di Radio Risacca. Dear Radio Risacca listeners, benvenuti all'ultima puntata della rubrica più British che avete mai ascoltato. Oggi la puntata parlerà della cosa più British dell'universo. Today we're gonna talk about the most British thing in the universe. The Spice Girls. Yes, the Spice Girls. Il nostro ponte ideale tra la cultura popolare italiana e la lingua inglese, proprio come i Speak English, che, speriamo, vi abbia aiutato a capire meglio l'inglese. And to English people to better understand Italy. Qual è il messaggio forte ed illuminante delle ragazze, simbolo del girl power? Ha ha ha ha ha. Ah ah ah. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Io ti dirò cosa voglio davvero, davvero. So tell me what you really, really want. Allora dimmi cosa vuoi davvero, davvero. I wanna really, really, really wanna zigga zigga. Voglio davvero, davvero, davvero voglio zigga zigga. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Se vuoi essere il mio amante, devi stare con i miei amici. Make it last forever. Friendship never ends. Fallo durare per sempre, l'amicizia non finisce mai. E ora ascoltiamo Cielo per Bene, questo capolavoro di musica popolare. E sentiamoci tutti un po' British, con l'ultima puntata di I Speak English. Let's sing together. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy B. Who doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. If you wanna be my lover,